La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori Radio 24 e grazie per l'ascolto qui alla versione di Oscar in diretta o in podcast che siate. Oscar Giannino vi saluta e vi ringrazia, vi ricorda l'indirizzo la versione di Oscar @radio24.it e vi introduce subito il tema della trasmissione, che nasce a dire la verità da una scia di lettere che mi avete scritto all'indirizzo della trasmissione dopo che abbiamo parlato un paio di settimane fa, quando abbiamo fatto le trasmissioni dedicate al nuovo contratto dei meccanici, sottoscritto, ve lo ricordo, dopo un anno e mezzo di prove muscolari, e poi invece sboccato in una firma alla piattaforma contrattuale per la prima volta dopo molti anni anche con la FIOM CGL, quindi CGL, CISL, UIL e meccanici, Federmeccanica, e vi abbiamo parlato di quel contratto sottolineando l'importanza, a mio giudizio, lo ribadisco, della convergenza di rappresentanti dei lavoratori e rappresentanti delle imprese su una modalità nuova, non solo la derogabilità piena rispetto al contratto nazionale, ma la convergenza di tutti, ripeto anche della FIOM, su un'impostazione per la quale una quota considerevole degli aumenti contrattuali è fatta non solo di reale nominale monetario, ma è fatta di corrispettivi sottoscritti in insieme di welfare aziendale, approfittando del fatto che, come sapete, nella legislazione italiana, se non ve lo ricordate ve lo ricordo, è scattata l'equiparazione ai fini della decontribuzione tra salario di merito e che si articola anche lì sia in servizi aziendali, le auto, i fringe benefits e così via, oltre che in denaro, ma l'equiparazione soprattutto di welfare aziendale a questo tipo di impostazioni. Di qui non solo l'interesse delle imprese, perché c'è la parte di decontribuzione, ma l'interesse per i lavoratori di andare verso piattaforme contrattuali in cui ci siano componenti solide, sostanziali, come lo sono il contratto dei meccanici, di welfare aziendale, nel senso che si tratta nel caso dei meccanici di garantire per esempio polizze fino a 700 euro l'anno di spese sanitarie, quindi non stiamo parlando di sciocchezze. Allora, su questo tema però moltissimi di voi ci hanno scritto dicendo: ma caro Giannino, ci volete fregare, caro Giannino, il welfare è una cosa troppo seria, la sanità è una cosa troppo seria per essere lasciata nelle mani di imprese, sindacati, eccetera eccetera, le imprese oggi ci sono, domani no, così si deresponsabilizza lo Stato. Questo è quello che temono molti di voi, e dall'altra parte in realtà l'azienda lo fa solo per avere decontribuzione. Allora, insomma, abbiamo toccato con mano che c'è una vastissima diffidenza su una cosa che invece io considero molto molto positiva: costruire dal basso pezzi di welfare rispetto ai quali il gestore pubblico, malgrado i tanti soldini che prende, come evidente nei decenni, non è in grado di avere l'efficienza di poterlo coprire a livelli in molte aree del paese in cui la domanda resta in evasa. A, B, resta in evasa soprattutto per chi ha basso reddito, ovviamente si può meno facilmente rivolgere al privato, quindi io sono molto favorevole, però non è che ho detto adesso li convinco. Devo prendere atto che per molti di voi c'è un coefficiente di rischio sociale invece che di un passo avanti verso la maggiore coesione sociale. Allora, di qui la trasmissione odierna. C'è un libro intanto che io vi invito a leggere, perché è appena uscito, Edizioni Vita e Pensiero, e parla esattamente di questo. Il titolo è Il welfare in azienda, imprese smart e benessere dei lavoratori, ed è con noi l'autore di questo libro, Luca Pesenti. Grazie di aver accettato l'invito di essere con noi oggi pomeriggio, Luca. Grazie a voi. È un ricercatore, sociologia generale, facoltà di scienze politiche e sociali all'Università Cattolica del Sacro Cuore, e si occupa da sempre proprio di evoluzione, interpretazione, interrelazione dei soggetti del welfare, quindi è la sua materia, e ha scritto questo libro proprio per spiegare meglio la base ordinamentale, giuridica, legislativa, ma poi soprattutto le esperienze concrete che sono già in atto nel nostro paese, tentando di spiegare come, per chi ha dubbi, come si può articolare meglio questa cosa. Allora, Luca, io partirei da te semplicemente per ricordare questo tipo di fenomeno, welfare aziendale. Chi già interessa e chi può interessare? Qualche numero. Allora, in questo momento interessa qualche milione di lavoratori, prevalentemente delle grandi imprese, Quindi in realtà però sta interessando una parte minoritaria della popolazione aziendale italiana che, come sappiamo, è in realtà inserita in piccole e medie imprese. I motivi di questo sono tanti, magari li vediamo dopo. Con l'evoluzione della normativa che già tu hai anticipato, la legge di stabilità l'anno scorso e legge di bilancio di quest'anno, i potenziali di sviluppo sono diventati molto grandi, perché è stata riconosciuta la contrattabilità di quasi tutto, mentre prima si poteva contrattare pochissimo. E quindi, diciamo, la conversione del premio di risultato in wealth è diventata un'occasione molto più disponibile, diciamo così, per le aziende e per i lavoratori di quanto non accadesse lo scorso anno. Siamo in qualche modo all'anno zero nel 2016, perché dopo tanti anni in cui se n'è più parlato che agito, diciamo così, su questi temi, la nuova normativa liberalizzante sta dando una spinta molto grande, che dall'anno 21 in realtà cominceremo a vedere seriamente in campo, perché di fatto poi la stabilità 2016 è stata attuata da settembre con i decreti attuativi, quindi insomma ci vuole tempo, ma siamo comunque appunto in una nuova stagione del welfare aziendale. La prima domanda, in relazione proprio a quello che hai detto, richiamando tu le classi dimensionali di impresa, notoriamente sono piccole, quindi abbiamo alta intensità di micro impresa, piccola impresa. Proprio di lì ci venivano molte delle lettere diffidenti dei nostri ascoltatori. Ma la nostra impresa è troppo piccola, ma figuratevi se qui abbiamo già, c'è già una bassissima rappresentanza sindacale, già stentiamo ad avere parametri ben identificati per eventuali contrattazioni per misurare la produttività della nostra azienda, figuriamoci se è in grado di la nostra piccola azienda di sopperire anche a esigenze di welfare. Però secondo me qui c'è una confusione, molta gente crede che sia l'azienda in prima persona chiamata a sopperire, non è così. Forse è il caso di spiegare come, quali possono essere le soluzioni con la contrattazione territoriale in azienda, no? Allora, intanto bisogna, come dire, tranquillizzare rispetto alle dimensioni complessive delle cose di cui stiamo parlando, cioè non è pensabile che il welfare aziendale sostituisca il welfare pubblico, ecco, quindi togliamoci di torno questo problema. Io studio il welfare pubblico prima di arrivare al welfare aziendale, le dimensioni sono assolutamente incomparabili e continueranno ad essere. Prima osservazione. La seconda osservazione è che però il welfare aziendale è comunque un'opportunità, è un'opportunità per integrare ciò su cui il welfare pubblico fa fatica a distribuire, diciamo così, e questo è un dato di realtà. Il welfare pubblico, indipendentemente dalla crisi dei debiti sovrani degli ultimi anni, ha una crisi di legittimità e di funzionamento che, come dire, ce la portiamo dietro dalla metà degli anni 70, non è roba di ieri, è roba di lunghissimo periodo. E strada facendo i bisogni si sono molto complicati e i rischi sociali si sono molto differenziati, e quindi il welfare pubblico oggettivamente non è più in grado di coprire tutto. Allora il welfare aziendale diventa una grande occasione dal mio punto di vista, certo con alcuni problemi, con alcuni rischi, non c'è dubbio, non è il migliore dei mondi possibili, ma è una grande occasione per allargare lo spazio di disponibilità di alcuni strumenti di welfare che altrimenti non sarebbero disponibili. Facciamo due esempi per tutti. Sì. Che cosa sono i problemi prevalenti delle famiglie italiane oggi su questo tema? Certo, le pensioni e la sanità, benissimo, questi sono due grandi argomenti classici del welfare, su cui il welfare riesce ancora comunque a dare delle coperture, non più universalistiche in senso classico, ma continua a dare delle coperture. Il welfare aziendale sta già facendo qualcosa in senso integrativo. Dove non arriva assolutamente il welfare pubblico oggi? Primo, conciliazione famiglia-lavoro. Esatto. Secondo, non autosufficienza, il cosiddetto long term care, tutto ciò che accade nella vita quando si invecchia e dove il welfare pubblico è assolutamente assente. Allora, su questi, cioè, per tradurre a chi ascolta, capitolo A, insufficienza dei nidi pubblici, capitolo B, tutto quello che può offrire il pubblico è la legge 104 a oggi, che come capite è un così non è il numero di ore che un lavoratore deve dedicare al parente affetto da quella patologia inabilitante. Il problema è dare risposte adeguate a quella patologia inabilitante. Scusa se faccio l'inciso, sì, per sì, capire. Sì, giustamente. Ecco, su questi temi il welfare pubblico non c'è, ed è difficile pensare che con questa stagione, diciamo così, di austerity ci possa arrivare. E però i bisogni delle famiglie ci sono e si faranno via via più gravi e complicati in ragione del noto problema demografico del nostro paese, su cui non mi addentro perché sarebbe troppo lungo. Diamolo per noto. Lo diamo per noto. Allora, su questi temi, appunto, fino al 2015 il welfare aziendale non poteva toccare palla, perché di fatto c'era molto poco. Dall'anno scorso su questi temi il welfare aziendale si è spalancato. Allora, come dire, capisco il dubbio da parte di molti lavoratori, io so che questo dubbio c'è, perché io dovrei, come dire, perdermi i pochi e maledetti subito che mi ritrovano in busta grazie al premio di risultato per affidarli a appunto dei trasferimenti invece in servizi, perché ci sono molti motivi di natura fiscale prevalentemente che, come dire, rendono particolarmente appetibile in questo momento queste soluzioni. Il primo tra tutti è che di fatto i lavoratori avrebbero e avranno a disposizione molti più soldi di quelli che invece avrebbero con il premio di risultato, in ragione appunto della tassazione che nel caso c'è, nell'altro caso evidentemente no, perché il premio di risultato convertito è completamente convertito. E quindi questo naturalmente è un beneficio fiscale per le aziende e retributivo dal punto di vista dei lavoratori. Allora, nel frattempo si è aggiunto un'altra ospite, perché ci siamo detti, sentiamo chi già su questo settore si è cimentato con soluzioni innovative, prima dell'esplosione, insomma, della decontribuzione di massa che, come avete sentito, fa entrare a pieno titolo il welfare aziendale nella contrattazione. E abbiamo quindi con noi Lucia Riboldi. Chi è Lucia Riboldi? È presidente di una rete, si chiama Gruppo Imprese Unite nel Collaborare Attivamente, Giunca, che, diciamo, sono i pionieri dal punto di vista delle aziende nel welfare aziendale. Lei poi è responsabile del personale di una di queste imprese. Questa è un'esperienza che storicamente è maturata nell'ambito dell'Unione Industriale di Varese, e lei è responsabile poi del personale di un'azienda che si chiama Viva Spa, ed è un'azienda leader mondiale nel suo settore. Stiamo parlando di tecnologia avanzata per la colorazione e la identificazione dei polimeri e tecnopolimeri termoplastici, quindi stiamo parlando di cose avanzate. Però, e qui non per parlare della sua impresa, ma di che cosa ha spinto la sua impresa e le altre che fanno parte di questa rete del Giunca, Gruppo Imprese Unite Collaborativamente, e per spiegare concretamente da dove siete partiti, cosa fate fino a questo momento nelle vostre imprese in concreto su questo welfare aziendale. Grazie innanzitutto di essere con noi, buon pomeriggio a Lucia Riboldi. Grazie a voi per l'invito. Dunque, Giunca, come lei ha detto, è Gruppo Imprese Unite e Collaborativamente, è la prima esperienza di rete di imprese in Italia, nata proprio per proporre queste nuove iniziative di welfare a vantaggio dei dipendenti delle 12 aziende aggregate attraverso questo contratto di rete. Le 12 aziende appartengono a vari settori manifatturieri, parliamo del settore della plastica, della chimica, della farmaceutica, della meccanica, e si rivolge appunto le proprie azioni a grandi imprese, ma anche a medie imprese. E ad oggi il panel di persone al quale Rete Giunca promuove, per il quale Rete Giunca promuove e sostiene queste azioni, sono 2.000 dipendenti più tutte le loro famiglie. Sì. Quindi è una grande rete per un nuovo progetto di welfare e formazione aziendale. Da dove siamo partiti? Siamo partiti nel mettere in comune, nel fare sinergia, mettere a fattore comune buone prassi e le risorse che già avevamo, nell'ottica proprio di aumentare la nostra competitività aziendale, cioè delle aziende in rete, ma anche per migliorare il clima aziendale, il benessere e la professionalità dei nostri lavoratori. Questo perché? Perché in un momento storico dove l'economia e quindi anche la società stava cambiando, appariva necessario, al fine appunto proprio di aumentare la competitività di queste aziende e quello di cui ho già parlato, trovare dei nuovi strumenti, trovare delle nuove forme per poter, attraverso la sinergia, promuovere appunto azioni a favore delle nostre persone, capitale importante e fattore assoluto di competitività delle nostre aziende. C'è parso appunto che una di queste risposte, proprio a fronte di quelle che sono le esigenze che spesso avvengono e ci vengono portate all'orecchio noi gestori delle risorse umane, fosse proprio quello di dire: mettiamoci insieme, facciamo qualcosa in sinergia, perché è anche in questo momento storico un segnale di ottimismo e di positività che ancora qualcosa si può fare e che quindi posso chiedere, insieme, certamente. Posso chiedere la reazione, siccome siamo partiti in questa trasmissione da uno spunto, cioè dallo scetticismo, che quando abbiamo descritto il contratto dei meccanici e il welfare aziendale nel contratto dei meccanici come una componente molto importante, molti dei nostri ascoltatori, dipendenti di piccole imprese eccetera, ci hanno detto: no, scusate, io preferirei soldi in busta, non mi fido delle imprese piccole che diventano un pilastro additivo come dite voi eccetera eccetera. Qual è stata, quando è partita la vostra esperienza, la reazione, diciamo, media dei lavoratori dipendenti? Dunque, come tutte le cose, quando c'è una novità, la prima reazione è quella di stare a capire quali sono i benefici o qual è appunto lo scopo per cui un'azienda che storicamente, se non in diciamo forma singola e per le aziende magari che hanno anche la possibilità o hanno avuto anche storicamente la possibilità di avere un sistema di welfare molto sviluppato, la prima reazione magari nelle organizzazioni dove questo non poteva succedere, non è mai accaduto, è stato di stare a guardare e quindi di cercare di capire quale potesse essere appunto il vantaggio che anche loro potevano trarne. Nella realtà delle cose, a fronte anche del fatto che questa esperienza sta portando i risultati attesi, si ha ad oggi un coinvolgimento sempre maggiore anche dei lavoratori nel proporre loro stessi quali possono essere appunto gli ambiti e i servizi esattamente quindi... nei quali loro hanno più necessità di essere supportati. Quindi un'esperienza positiva. Tenete conto, noi non vi stiamo convincendo per definizione, perché questa è l'area di Confindustria. Io sono interessato semplicemente a farvi riflettere di più su questo tema e a premere dal basso e a ricevere ulteriori stimoli. Ne facciamo altre, perché mi ha molto colpito il flusso di lettere dopo quelle trasmissioni sui meccanici. Intanto traffico e torniamo tra un minuto. La versione di Oscar. Eccoci tornati qui, stiamo parlando con l'autore di un libro, il libro, lo ripeto, si intitola Il Welfare in azienda, imprese smart e benessere dei lavoratori, le edizioni sono Vita e Pensiero, collana Le Nuove Bussole. Stiamo parlando proprio del welfare in azienda. L'autore è con noi, Luca Pesenti, che è uno studioso del welfare, che unisce l'esperienza accademica di studioso dell'evoluzione del welfare in Italia, ma anche l'esperienza di consulente concreto poi per chi organizza welfare pubblico e diciamo pubblico ma non gestito dal pubblico, o non finanziato dal pubblico ma direttamente dai privati, come è il caso del welfare aziendale, che dovrebbe svilupparsi nel nostro paese per l'equiparazione ai fini della decontribuzione tra salario di merito e diverse componenti dei trattamenti di merito, possono essere anche appunto fringe benefits, con invece il welfare aziendale. E oltre a Luca Pesenti e con noi Lucia Riboldi, che ci stava parlando prima, presidente di Rete Giunca, gruppo imprese unite nel collaborativamente, che ci ha parlato di questa esperienza nata all'interno dell'Unione Industriale di Varese, che ha associato diverse imprese e ci ha confermato che in effetti all'inizio ovviamente c'era lo scetticismo, per poi vedere espandersi l'interesse dei lavoratori. Quello che chiedo a Lucia Riboldi è: nella vostra esperienza, voi stiamo parlando di imprese medie, non piccole, piccolissime, corretto? Sì, noi vediamo medie imprese e grandi aziende in questo momento. Ma in questo caso, nella vostra esperienza maturata, ora che si va a un'estensione grazie alla decontribuzione al welfare aziendale, e esisterebbe davvero la concreta possibilità, cioè modelli che già girano nei territori per i quali, da esperienze come le vostre, si possono desumere dei modelli ai quali associare piccole imprese che hanno o bassissima esperienza di confronto sindacale e quindi maggiori difficoltà prima di vedere. Cioè c'è un modello di replicabilità territoriale nella vostra esperienza partendo da chi l'ha già fatto come voi, Riboldi? Certamente sì, anzi la rete d'impresa proprio per lo strumento di flessibilità dà proprio questa possibilità di aggregare, pur mantenendo la propria indipendenza, aziende e imprese con dimensionalità differenti. Replicabilità sì, perché per quanto mi risulti sul territorio italiano, proprio forti della nostra esperienza e partendo dal nostro modello, ci sono già degli altri esempi che chiaramente con l'attinenza al territorio, quindi con le dovute peculiarità dovute al territorio su quali sono nati, comunque stanno replicando questa esperienza nell'ottica proprio di portare welfare ai dipendenti delle aziende che aggregano in altre parti d'Italia. E in effetti ci sono altre esperienze, per esempio nel Bresciano, il contratto Wellstep e così via, però diciamo, è un mondo che adesso bisogna immaginare entrerà in rapida evoluzione. Intanto, allora, grazie a Lucia Riboldi. Voglio tornare a Luca Pesenti, l'autore del libro da cui siamo partiti, il welfare in azienda, per chiedergli, nella tua esperienza, che insomma va avanti da anni su questo tema, i sindacati, parliamo dell'altro attore, hanno dentro di sé le risorse umane, diciamo, specializzate su questo, oltre che la sensibilità per fare di questa possibilità un pilastro aggiuntivo veramente esteso, radicato e diffuso nel nostro paese? Perché io su questo punto interrogativo, perché per primo secondo me nelle imprese c'era un grande buco su questo, quindi la mia non è una critica solo al sindacato, però sono curioso di sapere te, che te ne occupi da anni, Luca. La risposta è sì e no al tempo stesso, ma questo appunto, come hai appena detto tu, vale anche per le imprese. Cioè il caso Giunca, di casi Giunca ce n'è pochi in Italia, mi risulta che le reti di impresa che abbiano welfare dentro sono meno di una decina, perché per fare rete bisogna fidarsi e quindi c'è già un passo, come dire, molto grande per invece un mondo imprenditoriale, soprattutto dei piccoli, che tende un po' a ognuno per sé. Alla vecchia logica, mors tua vita mea. Esattamente. La stessa questione evidentemente è sul fronte sindacale. Perché dicevo sì e no? Perché nella mia esperienza trovo, come dire, una parte del sindacato molto attento, soprattutto a livello di vertice, ma come dire, a livello periferico, territoriale o aziendale invece maggior difficoltà a entrare in questa nuova logica, che è una logica culturale prima che una logica di tipo diciamo economico-imprenditoriale. In fondo il sindacato è abituato come dire, a un altro modello, ad altre logiche, ad altri sistemi, quindi evidentemente si sta giocando una partita di riconfigurazione delle relazioni industriali che porta tutto, o quasi tutto, diciamo, verso il secondo livello di contrattazione, e questo tema è molto forte evidentemente dentro questa dinamica, e il sindacato si sta attrezzando. Ma la stessa cosa mi viene da dire anche rispetto alle organizzazioni datoriali, anche le organizzazioni datoriali si stanno attrezzando rispetto a un quadro mutato, e non è detto che siano in tutti i casi pronti a raccogliere la sfida. Quindi in qualche modo, appunto, dico sì o no, ma sì o no vale per tutti, datoriali, imprenditori, sindacati. No, perché te lo chiedo, perché io sono inizio ad essere abbastanza vecchio, quindi insomma guardo le cose in termini disincantati e di realismo piuttosto che di quando ci sono le svolte annunciate, faccio un po' la tara all'inizio, ma non perché sia pessimista, al contrario, io credo profondamente in questo, ma vedo un rischio, Luca, dimmi se sbaglio, cioè il rischio che diventi il pilastro del welfare aziendale un pilastro per la parte, appunto, tu l'hai usato, imprese smart, però intendiamoci, se smart significa essere veloci, e chi si può fare dal più piccola unità dimensionale di impresa alla più grande multinazionale italiana, ma se noi invece immaginiamo che alla fine il welfare aziendale diventa un pilastro solo per i grandi gruppi internazionalizzati che fatturano percentuale maggioritaria del proprio fatturato sull'estero, eccetera eccetera, ecco, devo dire, io sarei molto deluso e molto preoccupato, perché a quel punto la reazione del sindacato diventa no, attenzione, questo diventa il welfare per i nuovi ricchi del lavoro, mentre noi dobbiamo pensare al vasto corpo intermedio e la base della piramide sociale del lavoro, che a quel punto ne verrebbe esclusa. Questo rischio, secondo me, lo sopravvaluto io o esiste, Luca? sono assolutamente d'accordo con te, in realtà i dati oggi dicono esattamente questo, e questo sta determinando il fatto una segmentazione molto ulteriore, forte nella, nella distribuzione dei nuovi, di questi nuovi benefit, per cui abbiamo gli insider e gli outsider, grandi imprese e tutti gli altri, certe categorie e non le altre, eccetera. Quindi questo sicuramente ad oggi, ma quindi ad oggi che sconta ancora per buona parte, diciamo così, il modello precedente alla stabilità dello scorso anno, oggi è molto vero e sono assolutamente d'accordo, ma è proprio per questo motivo che io quando incontro le rappresentanze sindacali insisto molto sul fatto che la sfida va raccolta, non va rifiutata, ma va raccolta proprio perché soltanto raccogliendola la si può distribuire, diciamo così, come opportunità a una platea più ampia di lavoratori. Da questo punto di vista l'accordo del 14 luglio di quest'anno, che permette, diciamo così, la utilizzabilità della normativa anche in aziende dove non c'è una rappresentanza sindacale, utilizzando in questo caso forme territoriali, rappresenta un rilancio fortissimo, diciamo così, anche verso le piccole imprese. Se non si arriva fino alle piccole imprese, sono d'accordo con te, sarà un'occasione di ulteriore parzialmente mancata. Esattamente. Allora, io ringrazio Luca Pesenti e cari ascoltatori, parlo a chi aveva i dubbi, a chi, tutti coloro che hanno i dubbi. Posso garantirvi, non è un tomone, sono, è un libro snello, il welfare in azienda, editore Vita e Pensiero, serve soprattutto a quelli che ci hanno scritto, che sono in piccole imprese senza sindacato. Leggetelo e se avete altre curiosità scriveteci, ma soprattutto verificate se non vi convenga farti parte attiva nella vostra stessa piccola impresa per mettere questo tema nel confronto con la vostra azienda. Leggetelo, il welfare in azienda, editore Vita e Pensiero. Grazie all'autore Luca Pesenti e grazie a Lucio Riboldi che è stato con noi. Continuate con Radio 24. We'll be right back.